Dopo le elezioni polacche, abbiamo realizzato per Radio Onda Rossa una corrispondenza con un attivista di Varsavia che milita nel collettivo dello Squat Sirena, uno squat che si occupa principalmente di lotta per la casa, ma anche di, per esempio, diritti sul lavoro. E ovviamente, visto che la sua sede principale è lì, di lotta all'organizzazione Frontex, che come sappiamo è quella che si occupa dei confini europei. E abbiamo realizzato questa corrispondenza proprio in virtù della retorica che ha occupato, diciamo, le pagine dei nostri giornali e non solo, anche di quelli polacchi, effettivamente sull'elezione sul trionfo essenzialmente del partito dell'ex premier Kaczynski, guidato dalla premier designata Beata Szydło, e che per la prima volta sarà in grado di governare senza la cosiddetta sinistra. Ascoltiamo però cosa ci hanno detto appunto gli attivisti del Sirena riguardo a questa About the elezione. new government that will be in Poland after this election, in which the far right won. What about the new Abbiamo quindi chiesto qualcosa riguardo alla nuova elezione di questo governo che appartiene appunto all'estrema destra in Polonia. Basically, of course, it's only my opinion, based on the experiences of working along with the people deriving from autonomous La sua risposta ovviamente è quella di una persona che abbia una prospettiva workers autonoma e che lavori sui diritti appunto delle persone che per esempio occupano casa e oppure appunto che si occupano di diritto all'abitare e dei lavoratori e delle lavoratrici. Come abbiamo già detto, ufficialmente quello che viene detto dalla retorica mediatica è che è la prima volta che questo è un governo senza un partito socialdemocratico e, al Parlamento che comunque rappresenta una contrapposizione forte allo stesso. Altra cosa che si puntualizza nella stampa ufficiale è che appunto non ci siano altri partiti che rappresentino un contraltare appunto socialdemocratico, che abbiano politiche sociali forti e che questo viene dipinto come appunto il governo più di destra, il Parlamento più di destra della Polonia. In realtà quello che si può vedere è che già nel passato non ci sono mai stati dei partiti realmente socialdemocratici, anche solo in maniera temperata. Dal 1989, quindi, non ci sono mai stati socialdemocratici al governo o nel Parlamento in Polonia, anzi, sono stati loro i primi a produrre quelle riforme. Schifosamente neoliberali che hanno appunto afflitto la Polonia dalla fine del regime comunista, e questo l'hanno fatto anche i partiti derivati da quei partiti post-comunisti o che si dichiaravano tali, che sono stati in Parlamento in alcuni dei periodi appunto dopo il 1989. Si riporta anche come molte persone siano particolarmente preoccupate di questa mancanza appunto a sinistra, di come si faccia, oh, adesso sarà tutto molto molto brutto, andrà tutto male perché appunto c'è la destra, quando poi il discorso è un altro. Anzi, l'attivista del Sirena puntualizza come proprio la cosiddetta narrativa sociale che fa la destra è stato uno dei motivi per cui probabilmente è stata votata, perché appunto c'era una mancanza da un punto di vista della sinistra, come abbiamo già sentito, quindi che si è fatta promotrice la sinistra, la cosiddetta sinistra che si è fatta promotrice di riforme sul piano sociale, sociali, estremamente sociale, lavorativo, estremamente liberali e neoliberali, e questo ha prodotto il fatto che poi le persone abbiano, che non hanno mai sperimentato una normalità, diciamo, di socialdemocrazia, nemmeno appunto una socialdemocrazia alla tedesca, di quelle che fanno dei diritti anche un po' al loro baluardo. Non c'è stato questo in Polonia, quindi poi si va, ci si sposta sulla destra estrema, perché questa poi fa delle proposte, diciamo, di livello sociale, per quanto poi governate da nazionalismo e sempre comunque neoliberali, eccetera eccetera. Dunque, nonostante appunto i partiti cosiddetti di sinistra socialdemocratici abbiano avuto la possibilità e abbiano avuto anche, si siano spesi insomma nel parlare di riforme che avrebbero fatto sul piano sociale, non sono mai avvenute, sono continuate le stesse riforme che erano iniziate 8 anni prima del loro avvento al potere, sia a livello governativo che parlamentare, e dunque non ci si stupisce se poi non vengono più votati. Anzi, sono stati molto bravi nel parlare di sovranità nazionale, ma di sovranità sociale ed economica non si è riusciti a fare nulla e non si è voluto fare nulla essenzialmente. Dopodiché appunto sono stati sempre solo molto bravi nella retorica e nel parlare, ma non nell'agire. Altro elemento ovviamente è che non si sono spesi nemmeno nella salvaguardia dei diritti umani, e soprattutto, oltre che nel non salvaguardare i diritti umani, questi partiti si sono sempre molto molto spesi nell'essere molto vicini agli americani e agli Stati Uniti nello specifico. Come tutti gli altri partiti, quindi si sono spesi sia nel supporto alle guerre fatte dagli americani, sia nel accogliere truppe americane sul territorio polacco, quindi non c'è stata molta differenza su questo. Per tutti i partiti, questo non solo per quelli ovviamente socialdemocratici, che hanno agito nell'arena politica polacca dagli anni 90 in poi contro lavoratori e lavoratrici, e che si tenterà presumibilmente di cambiare la Costituzione. Riguardo le nuove politiche, quindi si teme soprattutto un attacco ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici anche sul piano della Costituzione, che si teme possa essere cambiata, in particolare perché appunto una forte maggioranza in Parlamento faciliterebbe le cose a questo partito di estrema destra, e alcuni giornali come Gazzetta Wyborcza, che è per esempio un quotidiano di sinistra, diciamo, polacco, ha puntualizzato come sia a rischio la stessa democrazia. Ovviamente quello che il compagno ci riporta non è questo, perché la democrazia essenzialmente, per quanto lui riporta, non è mai stata particolarmente attiva in Polonia, e in particolare non lo è stato per quanto riguarda i diritti di lavoratori e lavoratrici. Ricordiamo fra l'altro che la Polonia è l'unico paese europeo che ha delle free economic zone, ovvero dei luoghi in cui i lavoratori e lavoratrici possono essere sfruttati a piacimento dalle multinazionali, che possono senza alcun tipo di diritto, quello di sciopero ad esempio, ma anche semplicemente quelli più banalmente legati al contratto di lavoro, e possono così sfruttarli. Proprio su questo si può basare anche il successo economico polacco, che tanto è stato decantato dalla stampa europea, perché appunto sì, questo successo c'è stato, ma c'è stato sulle spalle dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Ora, l'altro partito che era presente in Polonia non è passato a queste elezioni era anche un altro partito di sinistra, un partito che mirava a proporsi in maniera simile a Podemos e Syriza, ma anche su questo ci sono numerose critiche da parte di questo attivista. Dunque, quest'altro partito si proponeva con una narrativa quantomeno più radicale a livello però appunto di narrazione di quello che avrebbe voluto fare. Il compagno usa spesso la parola narrative, che forse potrebbe essere tradotto più che altro con discorso, quindi un discorso più sociale, più radicale, che però un po' si ispira anche alla Scandinavia e che quindi non torna, diciamo, alle orecchie dell'attivista. After the transition has been a target of plenty of a big interest by USAID and other. Dunque, gli unici ad avere effettivamente una prospettiva sociale radicale erano appunto questi dell'estrema destra piuttosto che quelli della sinistra. Dopodiché, il compagno ci ricorda come gli Stati Uniti abbiano avuto un forte interesse ad agire in Polonia e l'hanno fatto anche cooptando intellettuali e cultura per i loro scopi. E così non solo appunto gli intellettuali e la cultura, ma anche i politici, i partiti e ovviamente anche di conseguenza i sindacati, che è ancora più grave, insomma. Ovviamente questo non è accaduto solo in Polonia, è accaduto anche nell'Ungheria, per esempio, dei nostri giorni, ma anche, e questo è abbastanza interessante, secondo il compagno, nella Tunisia appunto degli anni scorsi. Like force against the system has been always the right wing part of the political scene, and this is not an aberration as far as peripheral countries concerned, because like in Hungary you got the same history. We really inspired by what is going on in Tunisia, because like e si ricorda come anche Ben Ali fu per esempio un ambasciatore in Polonia e probabilmente anche un agente della CIA in Polonia. Quindi Ben Ali ebbe l'occasione di osservare come la legge marziale fosse impiegata contro i lavoratori e le lavoratrici che protestavano. E dunque fece lo stesso quando tornò in Tunisia contro appunto sempre lavoratori e lavoratrici che sceperavano. Quindi, visto che c'erano proteste nel 79 in Tunisia, Ben Ali quando tornò introdusse una sorta di stato di polizia e dopodiché pensò di utilizzare non solo i poteri forti, diciamo quelli che vengono chiamati hard power dal compagno, ma anche i soft power, ovvero quelli più culturali di cooptazione delle persone. Quindi, oltre che incarcerare, uccidere le persone, sono stati agiti questi poteri, diciamo, dolci, soft powers, e questi sono andati a cooptare anche sindacati e le appunto organizzazioni che andavano a combattere per le persone, lavoratori e lavoratrici, che sono risultate totalmente discreditate da questi stessi, dall'adesione a questi programmi, per esempio. Così si è spianata la via all'introduzione di norme neoliberali pazzesche e anche il totale smantellamento di organizzazioni che si occupassero di lavoratori e lavoratrici e tutelare i loro diritti. Without the representation, like it's far better. Like when you got this consciousness, then you stop believing in this, like a czar or a king or the representative of the trade union that is going to do something for you, then like really you got this kind of energy to totally change. Quindi come in Polonia praticamente si è sminuito totalmente il potere del sindacato, sia da un lato appunto togliendogli magari potere, sia dall'altro proprio cooptandolo a livello politico, così le persone si sono ritrovate in qualche modo in balia di questi nuovi di queste nuove leggi che passavano in maniera molto più semplice. In Polonia quindi è accaduto lo stesso, le organizzazioni di lavoratori e lavoratrici sono state più o meno smantellate a livello di potere effettivo, se non proprio di organizzazione, e d'altro canto non c'è però una risposta sul livello dell'iniziativa autonoma che possa appunto prendere in mano la parte che appunto porti la classe lavoratrice a prendere in mano da sé la lotta per le proprie condizioni. E più o meno quello che si puntualizza su questa organizzazione che si ispira a Podemos, eccetera, è perché andare a spendere tanti soldi e tanto tempo e tanta energia nel cercare una rappresentatività, un'organizzazione quindi formalizzata in qualche modo della propria lotta quando si potrebbe semplicemente, evidentemente, fare la lotta sul campo e cercare consenso appunto dalla parte delle persone che lottano, che hanno invece il problema appunto dei diritti che sono sempre meno. Oltretutto, ovviamente, l'auto-organizzazione di lavoratori e lavoratrici è stata totalmente smantellata e fortemente attaccata dai poteri forti, questo l'aveva detto poco fa e lo ribadiamo perché, insomma, così purtroppo succede in molte parti del mondo. E dunque, evidentemente, queste persone invece di mettersi a costruire l'ennesimo partito polacco avrebbero potuto, secondo appunto questo compagno, impiegarsi nel sostegno alle lotte che erano già in corso. Abbiamo poi chiesto al compagno qualcosa riguardo al prossimo giorno dell'indipendenza polacca, l'11 novembre, perché questa è una data che ogni anno si rivela un ottimo strumento per diffondere le proprie idee per quanto riguarda la destra estrema, insomma, quella più brutta, tra virgolette, quella più violenta, xenofoba e tutto il resto, insomma, che in Polonia vede alcuni partiti anche abbastanza seguiti, ad esempio l'ONR, che si rifà al fascismo, uno strano. The new parliament, let's say, and the Allora, se la nationalist domanda era march that riguardante will be la on connessione 11th tra of questi November partiti as di every estrema destra year for the fascisti e Independence Day in la Poland. politica, diciamo, di più alto livello, di più alto profilo istituzionale, il compagno ha detto che è dal 99 che più o meno studiano le connessioni tra questa e appunto gli alti poteri. Always concentrating on analyzing this kind of connection E in since like particolare c'è 1988, stata una 1989. connessione e un it's avvicinamento not new that there a is this questi kind of partiti connection between fascisti proprio perché the xenofobi. parliament and Nel the neo-fascists, 2004, because quando like si è even deciso when di the creare social dei democrats campi di concentramento, quindi probabilmente simili alle they were nostre the ones CIE, like, you know, in Polonia per quanto that used riguarda this la detenzione dei concentration centers migranti. For Si migrants, puntualizza but anche today come we questo entered sia the stato utilizzato nella retorica 2004. per quanto riguarda, per They were esempio, the far ones that passare decided l'iniziativa polacca in to occupy Afghanistan. Afghanistan. Questo poi si connette sia da un lato And appunto you per know, l'uso neo-fascists strumentale dei fascisti da can speak parte delle about like fighting istituzioni, in the questo caso migrants of anche this region, socialdemocratiche, but they sia al don't have money contrario to da build parte dei the fascisti concentration che camps here. ovviamente And they don't nonostante have guns avessero nella to loro retorica per esempio picchiare i kill migranti per le strade, ovviamente non hanno soldi per costruire dei campi di concentramento per porli là dentro e quindi sul piano detentivo, per esempio, si sono incontrati sullo stesso profilo, per esempio sulla guerra che chiaramente non potevano intraprendere loro stessi, visto che appunto fanno un'attività diciamo più di strada, tra virgolette, se non di stadio. E ovviamente si usa un linguaggio estremamente islamofobico. To manufacture this consent, to go to war and stuff, and the neo-fascists Il are linguaggio only the islamofobico è poi consequence stato usato appunto dalla politica of the alta narrative e that has been ovviamente put by quello the che official si cerca di politics far passare è che i fascisti since sulle the 80s, strade and sono always like semplicemente this la are actually conseguenza di quello nothing che new. poi media e And now, politica like riportano al personally, of livello più course, alto the nella official retorica e nella narrativa appunto parties people, the dell'islamofobia o del personalities razzismo. in the parliament are maybe right now personally more involved even Il nuovo with the Parlamento or è connected peraltro with the neo-fascists on addirittura the street. più connesso Yeah, di but quelli passati, this is the appunto ai only thing fascisti that nelle strade, might e differ. però But appunto questo even non ci if they stupisce, essendo un didn't partito di have estrema the destra. kind of personal connections, they were always dialectically connected with each other. Yeah, so basically, like each year, 11th of November, there is this since at least like 6 Ovviamente years, i fascisti hanno utilizzato la marcia dell'11 novembre polacco, che è il giorno dell'indipendenza dalla Germania, peraltro, per utilizzarla, insomma, per spingere le proprie le proprie parole d'ordine fasciste e xenofobe, utilizzare appunto nazionalismo, eccetera. Dopodiché, appunto, quell'appuntamento ormai è intriso di questo tipo di retorica, nonostante passi anche come il giorno dell'indipendenza polacca, semplicemente, e quindi sia particolarmente attraversato da numerose persone. But the negative thing is that, like, people go in the march, they are not into this kind of, you know, like, very, very, like, strictly neo-fascist narrative. E ovviamente il compagno ci ha ricordato che due anni fa c'è stato un attacco a due centri sociali e anche abitativi a Varsavia, proprio durante questa marcia dell'11 novembre da parte di neofascisti. Dopodiché quello che i neofascisti fanno non è particolarmente legato alle lotte in corso, quindi essenzialmente non si rifanno per esempio alle lotte dei lavoratori, non cercano di occuparsi di lotta all'abitare, sono abbastanza assenti dalla politica, diciamo, di base e di movimento, cose che invece in altri paesi non è. They don't manage to organize along with the with like workers or tenants and stuff. Ovviamente la lotta sul lavoro, la lotta per la casa, sono cose di cui ci occupiamo noi come movimento, si occupano loro, nello specifico polacco come movimento. Dunque questo è molto più importante, perché non si tratta solo di un giorno dell'anno in cui appunto ci può essere magari la calata dei fasci, ma è una lotta costante e più impegnativa. Il compagno lamentava anche il fatto che in realtà c'è un'iniziativa antifascista contro questa calata, che è un'iniziativa abbastanza, diciamo, di livello muscolare, che propone dei linguaggi che non vanno poi però a incidere sulla realtà sociale e economica di tutti i giorni, e che quindi di per sé non hanno particolare forza comunicativa sul tempo, e per questo appunto li criticava. Nonostante appunto questo sia un piano più di strada, muscolare, perché è relativo appunto a una giornata, quello che lamentava è anche la narrativa di un antifascismo alla Winston Churchill, che non ha molto senso, ma sembra anzi un antifascismo molto di stampo liberale quasi. E quello che si propone di fare il compagno, e che insomma gli attivisti del Sirena, gli attivisti del Sirena fanno tutti i giorni, è quello di cercare di non limitare l'antifascismo a un solo giorno all'anno, ma di costruire una reale contrapposizione, un movimento sociale che tutto l'anno comporti la lotta al fascismo sul piano economico e sociale. E soprattutto l'antifascismo non deve essere solo una questione di reazione su un loro impulso, ma un lavoro appunto costante e continuo che abbia vita nelle lotte di tutti i giorni. Without the asking themselves like why we are fighting against fascism, like what are our aims and stuff, and until this is not a core of anti-fascist movement in Poland, e per chiudere, ovviamente il compagno lamentava che l'antifascismo in Polonia non ha molta energia, proprio per questo motivo, ovvero che spesso si cercano risposte alla Winston Churchill piuttosto che cercare di connettere la propria lotta antifascista alle lotte di tutti i giorni, alle lotte sulla casa, alle lotte per il lavoro, e che questo comunque sminuisce particolarmente anche l'antifascismo stesso, che non si può andare, diciamo, a incidere sul piano sociale, costruire un vero antifascismo senza poi appunto connetterlo alle lotte di tutti i giorni e di sempre. E con questo si chiude la corrispondenza con la Polonia. Ricordiamo che i riferimenti per quanto riguarda il collettivo di cui fa parte il compagno intervistato sono sirena.tk, che è uno squat che appunto si trova a Varsavia, che si occupa, come già detto, di soprattutto di lotta per la casa, lavoro e migranti, in particolare di anti-Frontex. Con questo salutiamo i compagni polacchi e le compagne che appunto ci hanno raccontato un po' cosa è successo in Polonia negli ultimi anni, più che per queste elezioni, e salutiamo anche, come sempre, tutte e tutti coloro che sono private e privati della propria libertà.